E poi perché insomma era l'idea è proprio anche questa, dare questa sensazione al lettore e alla lettrice di mutamento, volevo dire, di cambiamento. Quindi insomma è stato questo un po' la ricetta che ha fatto il piatto. Tra l'altro, insomma, so che farai anche un tour di presentazione, quindi ecco, ti aspettiamo anche qua a Bologna. Dovrei riuscire a essere a Roma questa settimana, però spero sicuramente di recuperare, insomma, magari col nuovo anno, vediamo. Perfetto, Giacomo, io ti ringrazio per averci raccontato qualcosa di più appunto su Metamorphosis, e ricordiamo che è già uscito, quindi potete trovarlo, insomma, per Bau Publishing, potete trovarlo in tutte le librerie. Sì. Grazie mille a voi dell'ospitalità.